Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Riprendiamo il nostro cammino on the road. Io sono Live Napolitano, vi do il benvenuto a questa Radio Libriamoci Web. Da qui inviamo le nostre on the road. Da questa settimana ha inizio la serie di racconti del collettivo Linea S, una bella realtà che cresce e si consolida nella città di Genova, che sperimentando nuove attività di scrittura e di lettura si propone di uscire dai luoghi canonici ad essa deputati, scendendo nelle piazze, nelle strade. Come per l'evento Pedali nella notte che si è svolto appunto a Genova a metà settembre. Ascolterete il racconto Io li lascio passare dalla voce del suo stesso autore, Andrea Fabiani. Andrea Fabiani scrive racconti e poesie dall'età di 16 anni. È originario di La Spezia ma vive a Genova da qualche anno. Maggiori dettagli su di lui e sul collettivo Linea S li forniremo insieme alla pubblicazione del podcast sul Nottetempo blog. A questo punto, dandovi appuntamento ogni martedì, giovedì e sabato alle 10, alle 16 e alle 22, vi lascio l'ascolto di Io li lascio passare di Andrea Fabiani. Ciao, sarai sorpreso, lo so, ne è passato di tempo, 10 anni. Ti starei chiedendo perché, ci arrivo, ma devo prenderla larga, cominciare dall'inizio. L'inizio, secondo me, è Bologna, il 1994. Anche se eravamo inseparabili, mi è sempre stato ben chiaro quanto fossimo diversi. Certo, ammetterlo era un'altra cosa. Tu eri un cinico, poeta disfatto. Io più semplice e ingenuo, e soprattutto pendevo dalle tue labbra. Quello che ci accomunava erano le passioni, tra tutte il ciclismo, guardato più che praticato, di certo non eravamo atleti. Ma da quell'anno, finalmente, avevamo un eroe brutto, che come noi aveva poco più di 20 anni, ma sembrava già un vecchio. Guccini, mi hai detto allora, è soltanto uno scemo. Gli eroi non sono mai giovani e belli. E comunque non è come appaiono, è quello che fanno. E il nostro faceva una cosa che gli altri sembravano non saper fare. Scattava. In quel modo strano, con le mani basse, come per una volata. Scattava. Poi scattava di nuovo, poi di nuovo. E gli altri sparivano. Piano piano, si piegavano. Qualcuno allargava le braccia. Erano tempi di giganti, ricordi? C'era Indurain, che nessuno poteva togliersi dalle ruote, così credevamo. Poi è arrivato Pantani, e non sembrava nemmeno scattare, sembrava scappare. Da cosa allora non lo sapevamo. E forse non lo sappiamo nemmeno adesso. E che importa? Ecco, ci siamo. Qui so che non saremo d'accordo. Mi sono chiesto spesso il perché di questi 10 anni di silenzio tra noi. Ma non credo che ci sia un perché. La vita è così, si va a velocità differenti, ci si stacca, per un po' ci si vede ancora, poi si gira una curva e non ci si vede più. E si va ognuno del proprio passo, tanto non abbiamo mai fatto classifica, né io né te. Allora invece era tutto diverso, tutta una gara, su per San Luca, con delle bici improbabili, rubate. Io, la mia, l'avevo riverniciata tutta di verde. La cavalletta, la chiamavi così. Mi hai sempre superato in tutto, tranne che in bicicletta. Andavo più forte di te e almeno in quello volevo esserti superiore. Scattavo, poi ti aspettavo, poi scattavo di nuovo. Arrivavamo su e aspettavamo il tramonto, dicendo cazzate. Stappavamo le birre, fumavamo un numero assurdo di canne, eravamo felici. Quanto è durata? Quando è finita? Nel 98 forse. In quell'anno ci siamo laureati, eppure sai di quell'anno che cosa ricordo io? Ricordo come saltavi tu guardando la tappa di Montecampione con me, il testa a testa con Tonkov, uno scatto, poi un altro, ma quello non cedeva, restava lì. Poi un altro, poi un altro ancora, quando sembrava tardi, quando c'era solo da lasciar stare. È allora che i miracoli avvengono, hai detto, quando nessuno ci crede più, quando hai perso la fede. Alla fine ci siamo abbracciati. E poi il tour, l'ennesimo gigante abbattuto, una fuga da dove non sembrava possibile, il trionfo, poi le ombre, poi sono successe altre cose. Un autunno, un inverno, i primi lavori, meno salite a San Luca, meno canne e cazzate. Piano piano stavamo cambiando, a te il ciclismo sembrava interessare sempre meno. Gli eroi non possono vincere sempre, mi hai detto una sera, vincono soltanto alla fine, oppure non vincono mai. E Pantani si è fermato a Madonna di Campiglio, e tu hai fatto finta che non fosse importante, ma io credo che soffrissi più di me. Poi non so, ci siamo sentiti ancora qualche volta, sempre meno, avevamo bisogno di un motivo. A volte erano cose belle, l'uscita del tuo primo libro, più spesso erano cose orribili, tuo padre che muore, la storia con Elena. Io sono tornato in provincia, ho trovato un lavoro d'ufficio, ti scrivevo mail nelle mie lunghe mattinate di niente. L'ultima volta che ci siamo sentiti era la notte di San Valentino del 2004, ti ho chiamato, quando hanno trovato Pantani, ero al bar, l'ho sentito alla radio e ti ho chiamato. Eri arrabbiato, non per quello, per altri motivi. Mi hai detto, non so che mi hai detto, semplicemente non ti interessavo. Lo so, non si può rimanere ventenni per sempre. Si posa la bici, si compra la macchina, si smette di registrare le tappe in VHS. Però non mi andava giù che non ti importasse, volevo che mi dicessi qualcosa, volevo che mi illuminassi, che mi rassicurassi con una frase, come facevi a Bologna. Ti ho mandato una mail qualche giorno dopo e tu mi hai risposto con rabbia, hai scritto e allora? Tanto era tutto finto, non era niente, erano tutti dopati. Mi hai scritto che ero uno stupido, che non dovevo pensarci. Mi hai chiesto che cos'è rimasto, che ti ha lasciato quel tossico marcio. Non sapevo che cosa dire e allora non ti ho detto niente, mai più, e sono passati 10 anni. Ma dal mio ufficetto di grigia provincia, con la finestra che dà sulla nebbia della piazza, non ho mai smesso di cercare una risposta a quella domanda. Che cos'è rimasto? Mi girava in testa, anche se non la capivo. Adesso credo di sì. Non era una domanda sul ciclismo. Era una domanda di vita. Che cosa rimane quando sei stato tradito? Niente, direbbero molti. Cose da dimenticare e in fretta. E ti avrei detto così anche io, probabilmente, che di idee mie ne ho sempre avute poche. Ma oggi ti dico una cosa diversa, una cosa che non ti ho mai detto. A luglio del 2000, anche se facevo finta che non mi interessasse più, ero a casa, da solo, a vedere la tappa del Mont Ventoux. E c'era di nuovo Pantani, ma non era già più Pantani, e c'era Armstrong, che era falso anche lui, adesso lo sappiamo, ma allora era il gigante più mostruoso che ci fosse mai stato, immenso, granitico e invincibile. E anche quel giorno, come capitava ormai spesso, il piccolo cavaliere brutto si staccò a metà della salita, ormai troppo vecchio, ormai troppo triste. E quando ti stacchi in salita, lo sai, è come se fossi un sasso che se ne va a fondo. E io, guardandolo, mi sono sentito uno scemo ad essere ancora lì, a sperare, davanti a uno schermo. Ma quella volta successe qualcosa, perché Pantani non affondò, non si lasciò andare, rimase attaccato, rientrò piano piano sul gruppo, come un sasso che viene a galla. E poi fece una cosa che davvero non aveva alcun senso. Lui, che in quel momento era il più stanco, il più debole, scattò in faccia al gigante, e io, non te l'ho mai detto, io, nel vederlo, piangevo. Ho pensato, non so che cosa ho pensato, non sono bravo con le parole quanto te, e scusa per questi toni melodrammatici, ma lì, da solo, in salotto, saltando con gli occhi lucidi, io ho pensato che esistesse davvero la felicità, che esistesse una giustizia. Per un istante ho pensato che esistessero davvero le favole. Poi, com'è andata la storia lo sai, ci scommetto. Il gigante ha sbuffato, ha fatto 2 passi e ha raggiunto il mio eroe. E non l'ha schiacciato, ha fatto di peggio. L'ha condotto al traguardo, l'ha fatto vincere, l'ha umiliato, E non avrebbe dovuto, perché 4 giorni dopo c'è stata la rivincita a Courchevel. Ma questo, per me, è meno importante, sai. È in quello scatto tra le pietre del Ventoux il senso di quello che voglio dirti. È sciocco, lo so. Ma questo avrei dovuto risponderti a quella domanda di 10 anni fa. Che cosa ti resta se sei stato tradito, se tutto era finto? La risposta è che non tutto era finto. Quello che ho provato io, in quel momento, l'emozione, i brividi sulla pelle, la gioia ed il pianto, quelli sì, erano reali, cazzo se erano reali. L'idea che si potesse fare, che si potessero sconfiggere davvero i giganti, i draghi, i mulini a vento, l'idea che ci sia sempre speranza, che ci si possa rialzare ancora una volta, che si possa fare un ultimo scatto. Quello che proviamo è sempre reale e non si cancella più. Oggi ho una moglie e 2 figli e lavoro sempre nello stesso ufficetto di merda e per venire al lavoro uso la bici, non più la mia cavalletta. Ho una pieghevole, una cosa che nel 94 non esisteva e se fosse esistita noi sicuramente a vedere uno pedalare su una cosa del genere lo avremmo preso per il culo e di certo non l'avremmo mai rubata una cosa così. Io l'ho pagata un sacco di soldi. Di strada non ne faccio neanche, ma sai cosa faccio? Prima di arrivare in ufficio c'è un cavalcavia e quando ci arrivo io rallento e mi guardo intorno e se arriva qualcuno io lo lascio passare. Ecco cos'è rimasto, è rimasto che io li lascio passare e poi scatto. Ecco cos'è rimasto, la voglia di un altro stupido scatto. È rimasto questo, anche se non serve a niente. Anche se non ha alcun senso, ancora io scatto.